Allora, in testa alle preferenze dei contribuenti italiani, fino a questo momento c'è l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, che peraltro è presente in 3 degli elenchi dei beneficiari, in quello delle ONLUS, grazie al quale l'AIRC ha avuto un'assegnazione di circa 6 milioni di euro, in quello degli enti per la ricerca scientifica, attraverso questo canale ha ricevuto 38 milioni di euro, e in quello degli enti per la ricerca sanitaria, che le ha dato la possibilità appunto di avere un contributo di 16 milioni. Poi fra le associazioni di volontariato, la prima è Medici Senza Frontiere, segue Emergency e tante altre. Altre associazioni, dottor Concari, hanno preso davvero pochissimo denaro naturalmente, ma con che criterio si stila questo elenco degli aventi diritto? Principalmente è la cartina al tornasole del radicamento dell'organizzazione sul territorio, cioè in che modo l'organizzazione è riuscita a far attrarre le preferenze, l'attenzione diciamo dei contribuenti su di sé. E sicuramente l'attribuzione viene fatta dai contribuenti attraverso la posizione di una crocetta e soprattutto l'indicazione del codice fiscale. Quindi queste costituiscono le cosiddette attribuzioni dirette, vale a dire che il contribuente, indicando il codice fiscale nella casellina del settore specifico, va ad indicare, a individuare a quale organizzazione intende devolvere il 5 per 1000 della propria IRPEF. Poi dopo ci sono i cosiddetti resti, cioè le dichiarazioni dei redditi che dove i contribuenti hanno messo la crocetta sul settore specifico ma non hanno indicato il codice fiscale. Allora in questo caso il 5 per 1000 va a finire in un, chiamiamolo così, mucchio, dove in base alle preferenze espresse da altri contribuenti si procede poi ad una ripartizione pro quota.